Ingrid. Continuava a diluviare. Bergsundstrand era praticamente deserta. Ingrid era ferma in doppia fila a 25 metri dal portone di Julia Wahlberg, ma la giovane giornalista ancora non si era vista. Possibile che si fosse sbagliata? O forse la sua serata non era ancora finita? Forse la aspettavano ancora da qualche parte? Lei stessa ricordava che una volta andava in redazione direttamente da un locale, certe mattine. Fu interrotta nei suoi pensieri dall'arrivo di un uomo con il volto nascosto da un grosso ombrello rosso. Per un attimo pensò che fosse Tommy, ma l'uomo superò il portone e proseguì verso Langholmen. Ingrid mise in moto, spense i fari per non attirare l'attenzione e alzò il riscaldamento per scaldarsi le mani gelate. Cosa avrebbe fatto quando fosse arrivata Julia? E se non fosse stata sola? Se fosse stata con Tommy? Sarebbe scesa ad affrontarli? Avrebbe urlato, pianto, maledetto il loro tradimento, le bugie di suo marito. Due persone arrivarono a piedi da Hornstool, abbracciate sotto un grosso ombrello. Tommy e Julia. Ingrid rimase a fissarli, stringendo sempre più forte il volante. Con il fiato mozzo, mollò il freno a mano, ingranò la prima e accelerò verso di loro, con le facciate dei palazzi che le sfrecciavano a fianco. I due iniziarono ad attraversare la strada qualche decina di metri più avanti, senza accorgersi della macchina che si fiondava su di loro a fari spenti.